Cosa vi è sembrato? Bello, interessante. Abbiamo fatto delle colonne, degli uccelli. Poi abbiamo visto le signori. Come ti sei sentito? Molto bene, perché non avevo mai fatto questa invenzione. Adesso che si può fare con la carta così. È la prima volta che l'ho fatta. Penso una cosa che non avrei mai pensato nella mia vita, perché io l'avrei fatta in un altro modo. Non sapevo neanche che esisteva questa cosa. E non veniva sempre. È stato un po' difficile. Anche per me è stata bella. È stato divertente. Perché siamo andati... Abbiamo scoperto cose nuove. Abbiamo scoperto come era Torbole una volta, con delle voci e non con dei suoni. Era molto bello perché non sapevamo neanche queste cose e per cui ci siamo divertiti. È stato emozionante perché abbiamo scoperto delle cose nuove su Torbole da vecchia. Molto emozionante.